Ciao a tutti. Allora, questo l'appoggiamo qua. Io sono Andrea dell'associazione Iabasta, vengo da Bologna. Da quello che ho capito devo parlare dell'olio subito, così partiamo dall'olio, così svegliamo l'arcano dell'arrivo dell'olio in Italia. Ora, l'olio è arrivato questa sera al porto di Ravenna, la nave, per cui per assolvere subito alle cose burocratiche è probabile che i primi litri saranno pronti e disponibili poco prima di Natale. Credibilmente il quantitativo definitivo sarà pronto subito dopo Natale. Ho preso il pieghevole che era là, perché era l'ultimo rimasto. Questo sarebbe sezionato il depliant dell'olio, il pubblicitario. L'ho preso solo per farvi vedere in piccolo, per chi riesce, la zona da cui arriva l'olio, che è questa zona qua. Questa è la cartina dei territori occupati. L'area azzurra che vedete intorno sarebbe Israele, non c'è tutta ovviamente Israele. Ed è la zona rurale di Neilin, ed è a nord-ovest di Ramallah, che è la capitale amministrativa, diciamo, dello stato dei territori occupati di Palestina. È una zona di confine, come vedete è sulla linea verde, cioè i confini del 67, dopo l'invasione e l'occupazione definitiva da parte di Israele dei territori palestinesi. Ed è una zona dove in questo momento sta andando avanti il cantiere di costruzione del famoso muro, il muro di separazione che Israele sta costruendo tra Israele e la Cisgiordania. Di separazione, o meglio di annessione, per cui un muro che entra, come vedete, profondamente, questa sarebbe la linea verde, entra profondamente all'interno dei territori occupati, annettendosi di fatto, guarda caso, le zone più fertili, le aree coltivate, le falde acquifere e soprattutto nelle aree dove ci sono presenti le grosse colonie israeliane illegali, gli insediamenti, per cui portandoli di fatto, dopo la costruzione del muro, all'interno di Israele, facendoli diventare completamente e definitivamente israeliani. L'olio arriva da questa zona, perché? Perché è una zona dove, come Iabasta, siamo presenti da un anno e che ha visto tra gennaio e marzo di quest'anno dei grossi scontri, delle grosse manifestazioni tra la popolazione palestinese e l'esercito israeliano a causa proprio della costruzione del muro. E ha visto, ed è l'unica zona in tutta la parte dove il muro è già stato costruito, partendo dal nord di Jenin fino ad arrivare in questa zona e i sobborghi esterni di Gerusalemme, è l'unica zona dove ha visto una vittoria di fatto del popolo palestinese, cioè è l'unica zona dove, grazie a queste manifestazioni veramente di masse, di popolo, della popolazione di quei paesi, l'alta corte israeliana ha decretato il far retrocedere il muro sui confini del 67, per cui ridando indietro ai contadini palestinesi buona parte di quelle terre che erano state espropriate proprio per la costruzione del muro, per far passare il muro. E per cui è una zona dove, tra virgolette, il movimento, cioè la società civile, ha vinto, dove noi eravamo presenti, per cui ci faceva piacere dare una mano proprio in un'area che ci ha visto, ripeto, presenti e partecipanti insieme alla popolazione alle manifestazioni, dare una mano ai contadini per tirare avanti, per portare avanti la quotidianità. E per cui in quest'area, per parlare in maniera specifica del progetto dell'olio, abbiamo adottato come Iabasta 22 famiglie di contadini poveri, individuati fra i più poveri dell'area, e insieme a loro dalla fine di ottobre ai primi di novembre abbiamo concluso la raccolta delle olive e prodotto l'olio, che poi è stato importato in Italia, acquistato, pagato e direttamente ai contadini e importato in Italia, ed è quello che sta arrivando questa sera fondamentalmente. Questa è un po' la cosa burocratica, sempre come si vede dal depliant. Adesso non so se ci sono altri depliant magari disponibili questa sera da essere distribuiti, però in questo depliant troverete che noi parliamo, e troverete anche il logo di un'associazione, HDP, che è il nostro referente politico giù nei territori occupati. L'HDP è un'organizzazione che, come Iabasta, noi appoggiamo da un lato perché lavora fondamentalmente con la società civile, soprattutto delle comunità rurali. È un'organizzazione fondata e ad oggi presieduta dal dottor Mustafa Barghouti. Mustafa Barghouti è il fondatore delle cliniche mobili del Medical Relief e attualmente anche candidato alla presidenza dell'ANP, per cui presidenza in Palestina. Troverete l'HDP. Noi lavoriamo con l'HDP perché Primo, perché lavora con la città civile. Secondo, perché lavora con i movimenti giovanili, con i ragazzi. Allora, e perché HDP... Qui mi collego direttamente al progetto dell'olio, altri due progetti che stiamo seguendo direttamente giù in Palestina, come Ya Basta. Uno è l'aver aperto in agosto, durante la nostra presenza di agosto, all'interno delle strutture dell'HDP e lavorando insieme ai ragazzi e ai giovani dell'HDP, la sede locale, la redazione locale palestinese di una nostra radio satellitare, che è il progetto Global. Per cui, grazie, abbiamo aperto la redazione locale di Global Radio, si chiama la Global Radio Palestina, che ogni settimana trasmette 2 ore in streaming web e in satellitare sulle frequenze di Global Radio, e fanno 2 ore di trasmissione dai territori occupati. Scusate.